La Tirana. Incominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Parma trasmette ogni giorno, da lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, su onde corte di metri 49, nella frequenza di 7465 kHz. Amici ascoltatori, nel corso dell'edizione odierna potrete seguire le notizie. Andrà poi in onda le navi sbarcano sul grande schermo e le leggende della montagna Spirag. A tutti buon ascolto. Incominciamo con le notizie. Il premier Berisha, nel corso di un intervento con l'Ungheria, ha detto che il futuro mandato sarà un mandato che renderà l'Albania un paese sviluppato e che va sicura verso l'integrazione europea. Per i prossimi 4 anni noi andiamo avanti verso un nuovo mandato, ha detto il premier Berisha, e noi vogliamo il vostro voto non solo per quello che abbiamo realizzato, ma per il nuovo progetto l'Albania paese sviluppato. L'Albania un paese di collocamento al lavoro, l'Albania un paese che va sicuro verso l'integrazione europea. Il futuro americano di Engel ha ritenuto importante l'elezione giugno prossimo in Albania, sottolineando che come membro della NATO le libere elezioni aiuterebbero nella sua ammissione in Unione Europea. In un'intervista per l'agenzia INA, Elliot Engel ha detto che la Commissione Centrale delle Elezioni deve lavorare che le elezioni abbiano gli standard internazionali democratici. 805 nuovi posti di lavoro per 15 professioni diverse sono stati lanciati al portale di collocamento che è stato aperto dal municipio di Tirana sul suo website ufficiale. Nell'ambito delle priorità lanciate dal 2011, il sindaco di Tirana Bascia ha detto che questo portale sarà un ponte di collegamento tra gli impiegati e le istituzioni e il progetto di turno del municipio di Tirana. Gli interessi dei buoni del tesoro hanno segnato un nuovo minimo all'ultima asta che ha avuto luogo questa settimana dalla Banca dell'Albania. Secondo le informazioni arrivate dalla Banca Centrale dell'Albania, i buoni del tesoro con un termine di maturazione di 1 anno hanno avuto un percentuale medio di interesse del 5,99%, intanto che i buoni di tesoro con la maturazione trimestrale hanno avuto un percentuale del 4,97%, da 5,4% della recente asta. La città storica di Cuneo durante le prime 2 settimane ha segnato un numero di visite in crescita e sono visitatori locali che entrano rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Intanto è stata pubblicata una guida turistica in inglese dedicata alla città storica. Il direttore dei musei di Cruia, Assisi, ha detto che questa guida riporta delle informazioni, dati offerte dagli specialisti di Cruia e serviranno ai turisti stranieri che visiteranno la città. Oltre all'inglese, buona parte del materiale è stata raccolta anche in lingua italiana. La cappa di Rodone sarà una stagione turistica del tutto differente grazie alla nuova strada che si è conclusa questa autunno con un finanziamento di 287 milioni di lei del governo albanese e del Fondo Albanese di Sviluppo. I responsabili del comune Ishm affermano che in questa zona si trovano 5.500 abitanti e la comunicazione è diventata più facile grazie alla conclusione di questa strada di 5 km che comincia da San Pietro con una panoramica estremamente bella. Siamo alle altre notizie. Il ministro del Kosovo Recep ha detto che Kosovo è pronto ad attuare il piano d'accordo per la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Nel momento questo piano sarà accettato da Belgrado. Il commissario per l'allargamento all'Unione Europea, Sule, ha dichiarato che se il Consiglio dell'Unione Europea ritorna indietro la raccomandazione della Commissione Europea per l'avvio dei colloqui per l'ammissione della Serbia in Unione Europea, allora la Commissione Europea deve preparare al 6 giugno una proposta nell'ambito dei colloqui in Serbia, aggiungendo che Pristina e Belgrado sono obbligate ad attuare l'accordo di Bruxelles. Amici, abbiamo trasmesso le notizie. Ora è la volta di una pausa musicale. Thank you. romana. Ora è la volta, amici, del materiale dedicato alle leggende della montagna Spirale. Sul ruscello di Anè, o la via del lupo, la sedicesima via di Spirat, si trova la grotta dei draghi. Secondo la leggenda, è stata il nido dei draghi e degli spiriti benigni. Questa grotta aveva due strade sotterranee, una che portava a Tomol e l'altra a Keruna, le montagne del fulmine vicino Flora. Si afferma che molto tempo fa, in questi tunnel, i draghi Tomol e Vlora comandavano prima. L'unica che conserva questa montagna ci mostra chiaramente che in questo posto hanno vissuto i draghi. Si afferma che una volta nel tunnel che ti porta a Tomol entrò un caprone e un agnello. L'agnello riuscì ad uscire, invece il caprone no, poiché le corna l'hanno impedito di uscire. Oggi questa grotta è stata chiusa dai sassi. L'altro che si porta a Keraune finisce dopo 12 metri. Era la storia da tanto tempo che i giorni di maggio la gente va a prendere l'acqua sul bacino roccioso che lì si trova. L'acqua si usa solamente per le donne che non sono fertili. Tomol è entrato in guerra con Spirat perché lui aveva la neve e Tomol non l'aveva. Come l'arma di guerra usò la sciabola, con la quale tagliò Spirag riducendolo a sette. Spirag combatté con la clava, ma non vinse. In questo modo ha dato a Tomol sia la legge che soprattutto l'avrebbe lasciato in pace, hanno inciso un patto su un pezzo di roccia. Il patto è firmato con lo zoccolo del somaro da una parte e dall'altra parte con le corna di un bue. Questi due segni non sono difficili da guardare oggi, che si trovano sullo stesso tratto di roccia. Molto tempo fa nel castello viveva una fata molto bella di nome Fatta. Una volta, passeggiando per le strade, Fatta incontrò i due fratelli giganti, Mori e Fiat. I due fratelli innamorarono di lei a tal punto di combattere per amore. Tomol, provvisto di una spada luminosa, colpisce il fratello piccolo al fianco. D'altra parte, Spiral, con una grande clava, colpisce il fratello grande, trapassando il suo corpo. Questa battaglia fratricida non piacque a Zeus, il quale fece in modo di trasformare i due fratelli, i Ganni, in montagne e la Fatta in collina. I due amanti giacciono di fronte l'uno all'altro, per un attimo la fatta in mezzo. Possono anche bruciarsi, ma non si uniranno mai. Ogni giorno che passa, Tomol mostra al sole le zone nere trapassate dalla clava e Spirat mostra a sua volta i fianchi feriti dalla spada. Affermano che la fortezza versa tante lacrime per il suo destino e quello dei fratelli Viganni. Le sue lacrime sono state accumulate nel fiume Ossum, il quale attraversa tutta Veran. E anche Tomol e Spirat si trovano nel Zonato, adesso ad ovest di Veran. Molto tempo fa, nel periodo preistorico, come raccontava la leggenda, loro erano due fratelli molto forti, proprio due giganti. Quando erano piccoli, erano molto uniti, giocavano insieme e si innamorarono della stessa bellissima ragazza di nome Fatta, in albanese Sana. Con il passare del tempo, la lite diventò aspra, a tal punto da dichiarare guerra al fratello. La povera Fatta li amava tutti allo stesso modo, perché erano sia forti, belli, nella stessa maniera. Trovandosi ad una decisione molto difficile, anche lei desiderava che tutto finisse, ma non poteva succedere. Solo allora la Fatta si è rivolta agli dei, pregando in un loro intervento per portare di nuovo la pace, ma al posto della pace iniziò la guerra fra i due fratelli. L'intervento degli dei fu indispensabile. Solo allora la guerra finì. Secondo il giudizio dei dei, i due fratelli furono trasformati in due montagne particolari perché erano costretti a restare uno di fronte all'altro per l'eternità. invece la fata, artefice di questo fratricidio, è stata condannata ad essere trasformata in una roccia bianca, la fortezza di Perak, messa proprio accanto a Spirak e Tomor. I due pretendenti, Tomor e Spirak, avevano la possibilità di guardare la bellissima fata, ma non potevano mai toccarla. Il giudizio degli dei è stato messo agli atti di meccanica. Secondo la legge, la bellissima fata è stata condannata a lacrime, al punto di formare un fiume. Le lacrime della fata sono oggi le acque del fiume Ossun, che si estende lungo il pendio roccioso molto vicino alla fortezza. Dopo la leggenda della montagna Spirak, gentili amici, passiamo ad un altro argomento. Le navi sbarcano sul grande terra. È un evento che ha lasciato il segno in modo irreversibile nella storia albanese, ma anche in quella italiana. Con il compiere dei 20 anni da quegli avvenimenti, sembra che i tempi siano maturi per rielaborare le vicende e trarre alcune conclusioni. Uno dei mezzi più potenti è senz'altro il grande schermo. Sono usciti nel 2012 due film che parlano dell'episodio più significativo di quel periodo, il grande esodo della Marmara al Ponte di Bari, con a bordo quasi 20.000 persone. Da un lato La nave dolce del regista italiano Daniele Vicari e dall'altro Annia del regista albanese Roland Seco. Casualmente abbiamo visto entrambi i film in Albania, in una sala cinematografica di Tirana, strapiena di pubblico albanese ma anche di molti italiani che vivono e lavorano a Tirana. È stato istruttivo e interessantissimo vedere le reazioni come il critico prima e dopo la proiezione del film. Quindi questa vuole essere una sorta di recensione sensoriale di chi ha vissuto l'esperienza della migrazione in prima persona, senza le valutazioni tecniche e settoriali che invece abbandonano nelle tantissime recensioni che i due film hanno collezionato. Moltissimi italiani ricordano La nave Flora per via dell'utilizzo che Benetton fece per una delle sue pubblicità sociali nei primi anni, ma come succede con tutte le cose che si vedono in TV con insistenza per qualche giorno e poi nessuno ne parla più. Moltissimi albanesi hanno quasi rimosso il ricordo di quell'evento, complice anche la scarsa autoconsapevolezza della portata del fenomeno migratorio, che ha portato un terzo della popolazione a vivere fuori dei confini nazionali. Il film di Vicari, La nave dolce, racconta l'arrivo degli albanesi nel porto d'Aquileia, due quali di personaggi che oggi sono molto conosciuti in Albania, Cledi Cadio e Robert Budina. Le immagini scorrono bene e la narrazione parte dal momento dell'imbarco della nave e i vari personaggi raccontano le loro sensazioni, soprattutto le dimensioni umane, oggi inimmaginabili, del viaggio. E dopo alcuni minuti lunghi di racconti, il regista spalanca al pubblico in sala l'immagine della nave stracolma ripresa dal elicottero della Guardia di Finanza, accompagnata da un fondo musicale ottimamente perfetto delle proporzioni. Lo stupore per i giovani in sala e per quelli che non avevano mai visto questa scena è stato assicurato. Il film si propone da un punto di vista italiano e racconta i fatti, facendo emergere responsabilità e valutazioni su coloro che dovevano gestire l'emergenza. I personaggi che raccontano le loro storie sono distaccati ormai da quei fatticidi giorni e raccontano dal loro punto di vista quello che hanno vissuto, a volte rielaborando forse in modo consapevole più brutte situazioni in tristezza. Il film si sofferma sull'episodio di Bari e tenta di far emergere sia l'inadeguatezza delle istituzioni centrali italiane e la mala gestione della situazione che la buona volontà della gente. Il film di Secchio abbraccia un arco temporale molto più lungo, parte da una descrizione dell'Albania durante gli anni bui del regime di Hoxha, che sicuramente aiuta a comprendere le ragioni di quella fuga di massa. tocca alle vicende dei profughi albanesi nell'ambasciata estera di Roma, come lo stesso operatore di ricerca e foto recuperate negli archivi albanesi. Messo tra le immagini a colori dell'arrivo in Italia, il bianco e nero delle riprese delle autorità albanesi sono una metafora di due mondi che si incontrano e a momenti sembra che si scontrino da quanto è forte il contrasto. Inevitabilmente si arriva anche alla descrizione della nave Vlora, quella che per eccellenza è il simbolo dell'emigrazione partita dall'Albania. I personaggi, due pari comunicatori, ricordano quei atti dall'eternità, raccontano in particolare le sensazioni e soprattutto i fatti. La sistemazione degli albanesi dentro lo stadio di Bari viene raccontato principalmente per immagini e seco e evidenzia il trattamento ricevuto dai profughi, con bottiglie di acqua e sacchetti di cibo lanciati dagli elicotteri e scaraventati sopra la gente, come se fosse una massa non umana. Ovviamente viene fuori il lato umano dei Varesi, la storia di una delle protagoniste, fino a cui la famiglia verde della vita. Il film prosegue, racconta pezzi di storia albanese che a noi oggi sembrano anni luce lontano, ma che sono vicinissimi. Il fiorire delle finanziarie truffa, l'illusione dell'arricchimento facile, il crack generale, il paese sull'orlo di una guerra civile. Riparte l'esodo, di nuovo navi, stavolta meno imponenti della Vlora, ma comunque in grande quantità raggiungono l'Italia. Il clima non è quello del 92, stavolta c'è il blocco navale. Gli istanti interminabili in cui la nave della Marina Militare è di azione che rendono il fatto di Radar, provocando la morte di oltre 80 persone, ti lasciano sgomento e fanno comprendere, anche a chi non conosce bene la storia dell'emigrazione albanese, i drammi di questo fenomeno, le vite umane che è costate. Il film prosegue con le storie di alcuni rientri di successo, alcune storie di persone che invece hanno scelto l'Italia come la loro patria definitiva, alcuni che lavorano tra le due sponde. E di fatto raccontano la realtà reale, oggi è la complessità che esso porta con sé. Il respiro che Seiko dà al film è quello di un racconto corale che parte dalla nave, ma in realtà racconta le navi, le storie di coloro che sono scappati, fuggiti e che alla fine, nonostante tutto, se tornassero indietro farebbero tutto quello che hanno fatto all'epoca. Si percepisce che il racconto, accompagnato da un ottimo arrangiamento musicale di Robert Disha, viene da una persona che la racconta una persona, e questa sensazione di racconto intimo accompagna tutto il film. Ania e la nave dolce alla fine sono due film che usano due angolazioni diverse, ma che raccontano la stessa storia, la nostra storia. Amici, abbiamo trasmesso Le navi sbarcano sul grande schermo. Amici, si conclude qui la nostra trasmissione in lingua italiana. E insieme ci risentiremo domani, stessa ora e stessa onde. A sentirci. Tirana. Ici Tirana. Si vous voulez bien, nous commençons notre émission en français. Cette émission est transmise de 31 mars jusqu'au 26 octobre 2013, de lundi à mardi, à l'heure et à la fréquence suivante. Et de 7h30 à 18h, temps universel, sous la fréquence de 7465 kHz, dans la bande de 41 mètres. Tout d'abord, c'est notre examen d'information. Ensuite, sera un jour de la fête à venir aujourd'hui. Si vous voulez, nous poursuivons notre émission par une réseau à l'été économique. Et pour terminer, nous vous présenterons le magazine qu'on a sur l'économie. Si vous êtes le connaisseur, le jardin de l'Élysée, l'Indicamane, nous allons beaucoup de gens ce soir. Et la chance, nous rapporte aussi.